Radio 24 Reportage. Sono Everton, anch'io consacrato della comunità Palavra Viva, appartengo alla comunità quasi 3 anni. Sono anch'io studente qui alla Facoltà di Teologie. E lei, a differenza dai suoi confratelli, viene da una realtà molto diversa, sempre brasiliana ma metropolitana. Infatti io vengo dalla città proprio di São Paulo, dove come realtà sia sociologica, economica oppure anche addirittura religiosa, cristiana, è abbastanza diversa di quella realtà che c'è a Minas Gerais. A São Paulo ci sono delle diverse culture. São Paulo è proprio una mescolanza di culture a causa proprio della storia. Ci sono di tutti i paesi, ci sono dell'Italia che sono venuti a causa della cultura del caffè, anche i giapponesi, portoghesi, olandesi, cioè ci sono un po' di tutto, per cui c'è sempre una grande diversità di culture e questo si riflette anche nell'approccio religioso. La realtà di chiesa è viva, grazie ai nuovi movimenti, alle nuove comunità, alle nuove forme di spiritualità che sono sorte nella Chiesa Cattolica, specialmente dopo il Concilio Vaticano II. La fede della gente a São Paulo è molto viva. C'è anche, come dappertutto nelle grandi città, il materialismo, il consumismo, queste cose. Comunque il senso religioso resta ancora. La gente crede in Dio, la gente non è atea. Trovare un ateo è molto difficile, ma la gente ha l'espressione cattolica, ha nel cuore, direi, ancora la fede cattolica nel profondo del cuore, però non è qualcosa che si manifesta troppo, non è qualcosa che viene fuori, non è qualcosa che lo fa cambiare, diciamo, dell'ambiente, del lavoro. Voi siete in Ticino per frequentare la facoltà di teologia, però siete anche presenti con un impegno evangelico. Sì, sì, oltre che studiare, noi la nostra missione qui nella diocesi di Lugano è anche molto, cerchiamo di essere abbastanza fecondi, cerchiamo di essere missionari appunto, per cui ci sono diverse iniziative che noi promuoviamo, che noi cerchiamo di anche aiutare nelle parrocchie, aiutare i parroci a fare dei lavori, aiutare a richiamare la gente alla vicinanza con Cristo. In speciale la missione che facciamo al santuario Madonna d'Angelo, Sua Carona, sempre durante la primavera e l'estate. Durante la primavera, siccome abbiamo lezioni in facoltà, andiamo soltanto le domeniche, lì mantiamo il santuario aperto, facciamo delle preghiere con la gente, c'è la programmazione, ci sono le messe e poi durante l'estate siamo lì tutti i giorni. Allora possiamo stare più disponibili per l'accoglienza della gente, perché possano venire a trovarci e a trovare il santuario, che è molto bello, sta molto al cuore della gente del Ticino, in speciale qui nelle vicinanze. Vi sentite accolti dalla gente? Sì, tanto. L'accoglienza della gente qui in Ticino è grandissima. Sempre che si arriva siamo proprio convinti, siamo certi che saranno ben accolti, che l'italiano, che addirittura è sempre una preoccupazione iniziale per tutti, sempre abbiamo quelli che ci aiutano, sempre le persone della parrocchia, siano delle facoltà, siano per strada, se troviamo qualcuno, sono disposti ad aiutarci e anche accoglierci. Per l'accoglienza, per il cuore aperto della gente del Ticino, siamo riusciti a stare sempre insieme e sempre molto bene. La comunità cattolica Palavra Viva rientra dunque in quelle nuove forme di spiritualità sorte dopo il Concilio Vaticano II e che Giovanni Paolo II, in occasione di una sua visita in Brasile, definì primavera della Chiesa. Allo storico del cristianesimo Giovanni Filoramo, docente all'Università di Torino, chiediamo quanto sono diffusi e quanto contano nel mondo cattolico questi movimenti. Penso che le ascoltatrici e gli ascoltatori si ricorderanno quando è stato eletto l'attuale pontefice, prima che fosse eletto, tra il Toto Pontefice, ecco, era emersa anche la possibilità che fosse eletto un pontefice di quello che una volta si chiamava il Terzo Mondo, cioè delle chiese extraeuropee, una chiesa africana, una chiesa dell'India o il Brasile. Questo perché, per venire alla questione che lei mi poneva, perché effettivamente credo che sia noto, mentre in Europa, nei paesi tradizionalmente cattolici, lasciamo stare l'Italia, il caso esemplare può essere la Francia, no? Che era una volta un paese cattolico più importante dopo l'Italia, e dove la pratica, la secolarizzazione è diventata veramente un fenomeno che ha colpito alle radici questa tradizione cattolica. Mentre in altri paesi, dal Brasile, facevo il caso delle chiese cattoliche africane, ma si potrebbe anche parlare di tutta una fascia del sud-est asiatico, forse meno l'India, ma dalle Filippine alla Corea del Sud, il cattolicesimo ha conosciuto, diciamo, nel periodo post-conciliare, un successo che non aveva conosciuto prima dal punto di vista delle strategie missionarie. Anche se evidentemente sono situazioni molto diverse, a questo proposito c'è chi ha parlato in generale di cristianesimo del sud, cioè il sud del mondo, no? Questa fascia che va dall'America del Sud alla Corea del Sud, ma anche di cattolicesimo, perché non hanno avuto solo successo i gruppi pentecostali, che sono ormai di matrice esclusivamente protestante, ma anche una serie di movimenti e gruppi cattolici come in Brasile. Ecco, mi sembra che questo sia un po' lo sfondo, anche se, ripeto, comparativamente la situazione tocca anche certi paesi dell'Africa, chiese africane, dunque questa primavera riguarda anche l'Africa, e situazioni come la Corea del Sud. Professor Filoramo, dal profilo strettamente culturale, l'incontro tra cristianesimo del Sud, come viene definito, e quello occidentale può presentare dei problemi? Ma questo sì, ha suscitato dei problemi. Posso fare due esempi. Il primo problema è la formazione del clero, perché diversi a un certo livello di questi sacerdoti indigeni che rispondono a un'esigenza fondamentale, cioè quella che si è affermata dopo il Concilio Vaticano II, in conseguenza anche della critica postcoloniale ai processi di colonizzazione, non solo economica, culturale, ma anche religiosa, è stato di mettere in discussione la missione tradizionale di favorire la formazione di un clero indigeno. Questo clero indigeno, almeno a certi livelli, a livelli poi vescovili bisogna per forza avere una preparazione teologica romana, è venuto a formarsi nel cuore del cattolicesimo, cioè a Roma, nelle tradizionali facoltà teologiche, e ha posto tutta una serie di problemi di formazione. Faccio il primo esempio, credo indicativo, e cioè il fatto che il latino, che non è importante solo dal punto di vista delle discussioni liturgiche, ma è importante anche dal punto di vista della, diciamo, tradizione teologica, non è più una lingua conosciuta e continua a porre problemi seri per la formazione di tutto questo clero indigeno che viene da questi paesi, dal Brasile ai paesi del sud-est asiatico. La Chiesa ha affrontato questo problema attraverso una serie di sinodi, dove sono emerse tutta una serie complessa di questioni, fino a che punto si può spingere, diciamo, l'adattamento alle culture, alle tradizioni, tenendo a mente anche il caso del Brasile. La mia impressione, il problema è molto complesso, posso solo dare una modesta opinione, è che rispetto a una volta nell'America del Sud, che però comprende anche l'America centrale da questo punto di vista, cioè tutti i paesi tradizionalmente cattolici in seguito alla colonizzazione spagnola e portoghese, e si sono maggiormente aperti, soprattutto in funzione del nuovo tipo di clero, a quelle tradizioni indigene che a lungo sono state considerate idolatriche o superstiziose, o che comunque entravano in rotta di collisione con una concezione tradizionale del cattolicesimo. E dunque avvengono, si possono chiamare in vario modo, dei fenomeni di mixing, di meticciato, una volta impensabili. Questo però ha favorito, credo, il radicamento dal punto di vista della vita di tante comunità che che si sono costituite in questi paesi come il Brasile. Il Brasile è un paese di milioni di cattolici, professor Filoramo. Oggi qual è il peso della componente cattolica brasiliana nel mondo della Chiesa? La Chiesa brasiliana ha avuto dei rappresentanti episcopali a livello della gerarchia notevoli, penso a Elder Camara, ma ve ne sono anche altri, e ripeto, anche più recentemente. Fino a che punto rappresenti una voce importante dipende dal criterio che si segue, perché non si può ignorare che il Brasile è comunque, dal punto di vista geopolitico, un paese destinato a diventare sempre più importante. Il numero dei cattolici, che tipo di cattolici, fino a che punto lo sia, quale cattolicesimo sia in gioco, tenendo conto che è un paese in cui per tradizione avvengono dei fenomeni di sincretismo, di mixing, di meticciato, anche per quanto riguarda la dimensione cattolica. È noto che in queste tradizioni si può essere cattolici e nel contempo praticare culti che entrano in rotta di collisione col cattolicesimo. Rimane il fatto che è un paese che ha un numero, adesso non saprei dirle una cifra recente, ma di milioni e milioni di cattolici, dunque è un paese che conta, che ha il suo peso comparativamente nella politica della Chiesa, credo significativo. Era lo storico del cristianesimo Giovanni Filoramo.